mio uccellino, quando vede una passera alza subito la testa. Venga avanti lei signora, venga pure a carezzarlo, dopo due fischiate col vento in gabbia tornerà. Venga pure a carezzarlo, una, due, tre volte, e lui...